Tu fatina che non vidi mai, tu sei stata regina del regno che un giorno sognai. E tu, mio caro vecchio albero, tu sei stato il castello d'un regno e neppure lo sai. D'un regno con un solo soldato che cercava le streghe e voleva cacciarle a sassate. D'un regno che ogni dì riviveva i mille e mille e mille c'era una volta. Se non m'avessero detto mai che le fiabe son storie non vere, il mio regno ora avrei. Solo soldato che cercava le streghe, voleva cacciare a sassate. Un regno che ogni dì riviveva i mille e mille e mille c'era una volta. Se non m'avessero detto mai che le fiabe sono storie non vere, il mio regno l'avrei.